nella mia enciclopedia, la voce Atene, sta scritto che quella flotta con la quale gli ateniesi si salvarono dai persiani nelle battaglie di Salamina e dell'Artemisio era stata voluta dal partito del Demos, ovvero dei ceti imprenditoriali e mercantili. A monte c'era un disegno politico che prevedeva di concedere a Sparta il dominio territoriale, allearsi con altre città e con le colonie dell'Egeo e dell'Asia Minore nella Lega Delioattica e quindi sferrare una guerra espansionistica andando a romper l'anima ai persiani sia in Asia che in Tracia. La mia enciclopedia dice anche che conseguenza di ciò fu di rendere arbitro e padrone della vita ateniese non solo il demos, ma anche il proletariato, essenziale ed indispensabile per costruire una flotta invincibile. Verso la metà del V secolo avanti Cristo, con le riforme costituzionali di Efialte e di Pericle, allora Atene divenne una democrazia politica assai avanzata, in cui il potere, grazie ad un sistema di turni, era gestito direttamente dalle forze popolari. La mia enciclopedia dice queste cose e, come le dice lei, lo diranno senza ombra di dubbio altre enciclopedie e libri di storia. Atene sembra un assaggio della Comune di Parigi. Leggo però anche la prima lezione di storia greca di Luciano Canfora. Uno splendido libretto per rigore metodologico e per snellezza dell'argomentare. E vengo a sapere delle opinioni di un certo Constantin François Volney, uno storico francese di fine Settecento rimasto pressoché sconosciuto. Dice questo Volney che in Atene, il presunto santuario di tutte le libertà, per ogni persona di condizione libera vi erano 4 schiavi. E che, asseverato da Licurgo come da Solone, da Aristotele come da Platone, vigeva il dogma dell'ineguaglianza politica e civile degli uomini. Canfora fa notare come allora la famosa democrazia ateniese non fosse altro che una democrazia per élite e come queste opinioni siano rimaste sacrificate dal perdurare tra gli storici nel XIX secolo degli schieramenti pro e contro la democrazia greca, vista pur sempre come antecedente e modello ammirato o detestato della democrazia moderna. Per rincarare la dose, Canfora cita anche una pagina della Democrazia in America scritta nel 1840 da Alexis de Tocqueville, dove si informa che sarà stato anche vero che in Atene tutti i cittadini prendevano parte agli affari pubblici, ma il numero di questi cittadini non superava i 20.000 contro una popolazione complessiva di 350.000 abitanti. Tutti gli altri erano schiavi, dice de Tocqueville, e compivano la maggior parte delle funzioni che spettano oggi al popolo e anche alle classi medie. Le fonti in proposito non sono tutte uniformi, ma il senso di queste cognizioni non cambia affatto. Ateneo di Naucrati, del secondo secolo d.C., per esempio dice che gli ateniesi ammontavano a 21.000, i metrici a 10.000, gli schiavi a 400.000 e porta un esempio tratto da Senofonte, secondo il quale un tal Nicia di Nicerato possedeva 1.000 schiavi che affittava a Sosia il Trace perché lavorassero nelle miniere d'argento, con l'accordo che Sosia versasse per ciascuno di loro un obolo giornaliero. Tutto ciò evidentemente non è servito per evitare che gli storici ci proponessero a modello la democrazia ateniese. Il tempo che passa fa molto, ma più del tempo fa la volontà truffaldina che mira, tramite la manipolazione del passato, a ottenere l'obbedienza del presente. È con procedimenti di questo genere che, per esempio, il nostro attuale governo potrà essere ricordato e additato a modello come un governo di sinistra. Il 26 agosto del 1789 a Parigi, Qualche animo nobile e accorto fece una dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. In essa si poteva anche leggere che la libera comunicazione del pensiero e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente. L'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1 gennaio del 1948, poi non si discosta di molto dall'ormai antico modello, in certo senso lo aggiorna. Dice che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, aggiungendo che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. L'articolo della Costituzione italiana è stato scritto da qualcuno meno accorto del legislatore francese. Infatti la nuova legge sulla cosiddetta par condicio, al di là del tradire il buon senso, del mettere in mostra un autoritarismo preoccupante, trasgredisce palesemente il dettato costituzionale. Più accorto, è stato il legislatore francese, che dopo aver scritto che ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, ha prontamente aggiunto salvo rispondere degli abusi nei casi determinati dalla legge. Con il che nella prima parte era fatta salva la rivoluzione e nella seconda era aperta la via alla restaurazione. Un argomento si sa, non diventa migliore per il fatto di essere ripetuto. Se non sta in piedi, non sta in piedi una volta, come non sta in piedi mille volte. Buona regola nelle conversazioni è anche quella di ritenere l'interlocutore in grado di intendere e volere. Troppo spesso da parte di chi governa si ritiene di doversi rapportare con chi è governato come in un caso di circonvenzione di incapace. E il discorso vale anche per chi gioca all'opposizione. In ogni comunicazione onesta e leale è d'obbligo innanzitutto ratificare l'interlocutore come tale e concedere che in caso di disputa vinca l'argomento più convincente alla luce di criteri espliciti. Se invece si ritiene che un argomento valga l'altro, allora ogni delirio legiferante è buono.